Are listening to. Are listening to. You are listening to Radio Bidoum. This twinkle in time can't give it no credit. I thought about my sleeves. I really got me down. Got me down. I got me so down. I got me a headache. My heart's crammed in my cranium. And it still knows how to Buonasera. Mercoledì 21 di giugno. Quindi solstizio, mi dicono. Ah, solstizio. Solstizio d'estate, quindi già. Se oggi vi sentite stanchi sapete perché sta cazzo di giornata dura un sacco. certo. Bello, bellissimo. Svegliarsi la mattina presto è bellissimo e ti dà tante energie per poi arrivare a quest'ora completamente sbombi e niente, quindi ci siamo qui noi a farvi compagnia e a trasportarvi verso la fine di questa giornata. Come sono stato radiofonico. E dunque presentiamoci, siamo certo, buonasera, abbiamo con noi buonasera. Questa sera Lobo. Buonasera Dan. Buonasera. E noi abbiamo non facciamo delle prove di trasmissione questa sera. No, stasera parleremo un po' a braccio, un po' di braccia, parleremo di braccia. Uh-huh. E per braccia, sì, sicuramente. E che altro dire? Quindi, ma parliamo d'altro. Allora, un argomento che ci ha colpito oggi e di cui vorrei faccio le domande, insomma. Esatto. Cos'è successo su Reddit? Ah, ecco, questo è abbastanza interessante. Praticamente su Reddit, diciamolo per chi non lo sapesse, è uno dei più grandi forum, volendo, di internet, dove ci sono questi subreddit, ovvero sia subforum dedicati alla qualunque. E abbiamo è arrivato un nuovo ospite. Comunque, è timido. Per farla breve, questo sito ha un API che permette di accedere, di usare app di terze parti, bot, eccetera, e queste cose sono usate da un sacco di persone della community di Reddit, anche dai moderatori, eccetera. E Reddit ha deciso di monetizzare su questa sull'utilizzo delle loro API. Questo significa che se io voglio scrivere un'app che fa apparire il sito di Reddit e venderla sull'App Store, devo comunque pagare a Reddit per ogni richiesta che io faccio al loro sito un tot. E questa cosa ha fatto un po' girare i coglioni a un po' di persone e un po' di subreddit sono stati autoscurati come protesta. Il CEO di Reddit è intervenuto. Sono stati censurati o si sono auto? Si sono autocensurati, sì, e si sono chiusi. Praticamente te andavi sul sito di Reddit e non vedevi alcuni dei più grossi, fra l'altro, tipo, se non sbaglio, Pix, che è quello dove girano tutti i meme, che per quanto siano cagate sono cose che poi portano traffico e soldi a Reddit, quindi questa cosa è stata fatta, diciamo, con lo scopo proprio di creare un disservizio, anche volendo, alla fine. E quindi niente, quindi questa cosa è andata avanti per un po' di giorni. Alcuni subreddit adesso hanno deciso di riaprire come subreddit not safe for work, così Reddit non può fare pubblicità in questi subreddit qui. Molto sottile la cosa, e hanno iniziato a pubblicare un sacco di immagini porno, peraltro. E giusto adesso stavamo controllando immagini porno, perché Reddit non può monetizzare su quelle immagini, non può pubblicizzarle, esatto, e poi un po' per trollare, anche per fare un po', per esempio, uno dei subreddit che stavo guardando prima è interesting as fuck. Che ovviamente, avendo la parola fuck, questa cosa era ancora più invogliante a fare una cosa, e quindi stanno girando un sacco di fotoporno. E ho visto che adesso praticamente i moderatori di questo subreddit sono stati tutti epurati e sostituiti, e ora non so bene come procederà la cosa, però sarà molto interessante, perché nei prossimi giorni se ne parlerà un sacco di questa cosa. E alla fine, cioè, Reddit è un sito che comunque vive della comunità di persone che fanno anche, fra virgolette, volontariato sul sito, tipo moderatori. E aperta e chiusa parentesi, io modero un subreddit del cavolo su un sintetizzatore, ho fatto anch'io questa specie di protesta su un sintetizzatore OPZ, sì, vabbè. E però, appunto, nel senso, cioè, anch'io faccio il moderatore di questo subreddit, stanno 5.000 persone, cioè alla fine se ci gira spam, ok, sono io che clicco le cose, che non è il signor Reddit che comunque fa pagare la pubblicità, quindi questa cosa un po' vabbè, comunque, come al solito, questo semplicemente conferma che su internet, se una cosa è gratis, chiediti perché è gratis. Sì, è un brutto... Cos'è veramente quello che sta generando del... Una brutta china, tra l'altro possiamo ricordare che come è nato Reddit, cioè Reddit è una creatura di Aaron Schwartz, fra l'altro, di Aaron Schwartz, che si rivolterebbe nella tomba. Il rumore che sentite in questo momento è Aaron che si sta rigirando più volte. Aaron Schwartz, ricordiamo vagamente chi era, adesso vado un po' a memoria, è stato un hacker di Brooklyn, New York, il quale in età molto giovane ha fatto un paio di cose che ancora sono fondative che utilizziamo e che ricordiamo, tra cui ha fondato Reddit. Esatto. Ha anche creato la sintassi Markdown, che viene utilizzata massivamente con successo da un sacco di piattaforme, generare pagine web è una sintassi molto semplice, come fosse è un marcatore di testo, come fosse l'HTML, ma molto più semplice dell'HTML, tanto che è quasi indistinguibile dal linguaggio naturale. È diventato uno standard per questo, e dunque dallo scrivere direttamente in Markdown si può poi esportare facilmente una pagina HTML, un PDF o un punto .doc o quel cavolo che uno vuole, o anche un EPUB, e dunque il Markdown è stata una gran bella cosa. Aaron Schwartz ha fatto anche un'altra cosa, che è il motivo per cui è diventato famoso, tristemente non tanto per l'invenzione, l'intuizione della creazione del Markdown, ed è stato il fatto che quando lavorava al MIT, all'MIT di Boston, a un certo punto, siccome ha scritto anche un manifesto che abbiamo appeso in A Club, ha preso una quantità di documenti, di PDF, di documenti digitali riguardanti pubblicazioni scientifiche, e le ha resi disponibili e le ha pubblicate in rete. Questo l'ha fatto nottetempo, entrando, come aveva le chiavi del laboratorio dove erano situate le cose, ha attaccato un hard disk, se li ha copiati tutti e poi li ha pubblicati. E questa cosa in realtà, appunto, è molto importante, perché c'è il problema della diffusione degli studi scientifici, che spesso e volentieri gli studi, te per accedere a uno studio scientifico devi pagare un intermediario dove pubblicano questi i vari PDF degli studi, eccetera. Mm. Quello che voglio dire è che c'è proprio un problema di accesso alla conoscenza. Accesso alla conoscenza, esattamente. E non ha pubblicato foto piccanti o gossip, ha pubblicato pubblicazioni scientifiche che hanno una rilevanza. Che è importante che siano condivise, cazzo. Non è importante che pago per. Ve ne sarete accorti durante la pandemia di quanto era importante che la comunicazione scientifica fosse divulgata e accessibile non solamente a chi ha i soldi per acquistarla. E quindi Aaron ha fatto una cosa importantissima, cioè, perché proprio ha evidenziato anche un problema grosso. Certo. Correva l'anno 2012, vado a memoria, così, non è così, però sì. 2012, 2010, no, sì. Una cosa così. E come è andata a finire? È andata a finire che l'MIT, l'università dove c'era questo server, l'ha presa malissimo, così male che l'ha denunciato. E la denuncia è stata cavalcata da alcuni esponenti dell'estrema destra americana, perché è stata proprio utilizzata come, diciamo, cavallo di Troia per incutere timore a ipotetici emuli di Aaron. E dunque Aaron Schwartz si è trovato delle denunce molto, molto forti: danneggiamento informatico, intrusione nei sistemi informatici, robe che non scherzano per niente negli Stati Uniti. E dunque si è trovato davanti alla prospettiva di prima dell'ergastolo e poi di una pena minore dell'ergastolo. Si parlava di una ventina d'anni, e a un certo punto il suo avvocato andò una sera a casa sua e gli disse che non c'era speranza che evitasse il carcere, cioè sarebbe comunque andato in carcere, ma si augurava che tra un paio d'anni si sarebbe potuto riprendere in mano la cosa e che probabilmente non avrebbe fatto proprio 20 anni. Fatto sta che la sera stessa Aaron Schwartz si è suicidato. E così. Aaron Schwartz era il fondatore di Reddit, dunque per questo dicevamo, sì, il rumore che sentite è Aaron che si sta rigirando nella tomba. Rigirando, esatto, vedendo la sua creatura Però adesso approfitto per farti delle domande, perché giustamente la casalinga di Voghera o un bracciante di Lucano si domanderà cos'è una API. Prima hai detto API è in inglese letteralmente significa, è un acronimo, significa Application Programming Interface, ed è una modalità di fare delle domande a un computer fondamentalmente. Cioè te puoi accedere a una base dati, come può essere la base dati di Reddit, tramite, in questo caso, un API HTTP, ovvero usando il protocollo HTTP, ovvero un indirizzo web particolare con dei parametri particolari, con delle cose che ti permettano di fare delle query, che ne so, capire quali sono i post, query delle richieste, delle richieste, sì, quali sono i post fatti in un certo subreddit, eccetera, insomma, nel senso, praticamente una serie di azioni che te potresti fare anche, cioè l'equivalente di cliccare sul sito di Reddit, soltanto queste cose vengono le puoi a quel punto automatizzare, oppure far fare a una cosa che è tipo un'app, per esempio, no? L'app per un telefonino fa così, per diciamo, non è il sito web che ti appare, ma è una serie di richieste al server di Reddit che ti poi vengano elaborate dal tuo telefonino. Vabbè, insomma, comunque, per farla breve, è una modalità di accedere alle informazioni che sono contenute nel sito di Reddit. Ecco. E una domanda, ma le API sono sempre accessibili? Dunque, le API sono un modo per dare, per ricevere informazioni da un server, o per addirittura dargli delle istruzioni? Sì, perché te puoi fare, per esempio, dei post, cioè tramite, utilizzando le API. Un sacco di bot che girano su Reddit, perché Reddit spesso a volte ci sono, no? Sono bot che scrivono anche commenti, e questi commenti lo fanno utilizzando le API, appunto, cioè così. Mi domandavo, un sacco di siti, un sacco di cose in realtà hanno le API, cioè per esempio OpenAI, un'altra, no, che se ne parla tanto, cioè ci sono le API per interagire con ChatGPT. Te puoi farti il tuo programmino che scrive e fa le domande a ChatGPT, però gli dà la tua interfaccia, magari, no? Lo dico per le nostre ascoltatrici e ascoltatori, quando diciamo puoi farti il tuo programmino, potresti farti il tuo programmino certamente, o usare il programmino che qualcun altro ha fatto. Esatto, sì, perché magari ci sono esempi. Se questo, cioè, è legale, possibile, esatto. No, e non criminalizzato. Sì, sicuramente sul sito di ChatGPT ci sono anche degli esempi e ti spiegano sicuramente come fare, o qualsiasi altro sito che offre una API, perché è proprio questa la cosa che ti... E mi domandavo, ma le API sono sempre accessibili gratuitamente? Nella maggior parte dei siti sì, cioè nel senso, quelli che poi ci sono ovviamente eccezioni, però spesso, cioè tipo non puoi fare più di tot richieste al secondo, al minuto, eccetera. Nel caso specifico di Reddit vogliono fare una cosa leggermente più, insomma, un po' più preoccupante, perché appunto sta cosa di voler far pagare l'accesso ai terze parti per qualsiasi operazione sull'API di Reddit. E questa cosa significa, appunto, cioè se io, Tizio Caio, mi scrivo la mia app che renderizza il sito di Reddit, no? Che magari te puoi utilizzare per accedere invece di aprire browser, oppure di, insomma, se io faccio questa, cioè il problema è che appunto non lo posso fare, perché mi costerebbe un sacco, perché devo usare l'API a pagamento a questo punto. E per esempio le API di Twitter, API di Twitter adesso non sono a pagamento, cioè a parte, no, adesso non so com'è cambiata di recente, perché chissà che con Elon Musk, io devo dirti la verità, ha messo il budget a pagamento, però mi, no? Sa, il budget a pagamento l'ha messo, però mi sa che le API le puoi ancora usare, non so bene come, non so bene, via, non ho idea, no. Un mondo di paywall. Però esatto, esatto, la tecnologia semplificherà tutto, visto?

no bone sky lock. For him no say it's a blow. Yeah, Lord have mercy. Chibam, chibam, chibam, bam, bam. The Naughty Dreads gang. I'm gonna send him to outer space to find another race. I'm gonna send him to outer space to find another race. Satan is a evilous man, but him can't choke sit on I man. So when I check him, my lass in hand. And if him slip a gun with him hand, I'm gonna put on an iron shirt and chase Satan out of earth. I'm gonna put on an iron shirt and chase the devil out of earth. Me see them dove it on the goalie bank. Me see them dove it on the river bank. Me see them dove it and them rub it in a boa bank. Me see them gone at all a man. Send him to outer space to find another race. I'm gonna send him to outer space to find another race. Said who feels it knows it, y'all. Radio Bitume. Radio Bitume. Radio Bitume. Ed eccoci qua. I moderatori. No, sono utenti che hanno deciso, magari, cioè, che ne so, te hai qualche hobby? Non lo so, dimmi qualche passione, dimmi. No, è per fare un esempio, vabbè, metti che hai l'hobby di allevare cicogne, ecco. E quindi te fai il tuo subreddit reddit.com/r/allevare cicogne, ok? E a quel punto sei moderatore, quindi inizia ad arrivare gente, magari fa pubblicità in altri forum, si forma una comunità e tutto quanto. E cosa si è... le lucine sui microfoni non servono, no, io vedo là che entriamo, quindi stiamo entrando, sì, siamo on. Io ho abbassato la musica, sì. Tutto bene, non siamo più in prove tecniche di trasmissione, siamo in un'altra trasmissione, siamo in diretta. E quindi, niente, qual era la tua domanda? Visto che le persone che i moderatori di solito sono dei volontari, cioè praticamente siamo nella vecchia internet, sì. E come si rapportano a questo tipo di manifestazione? Mi dicevi, protestano? Diciamo che c'è stata appunto una forma di mobilitazione da parte di un po' di questi subreddit, insomma di quelli grossi anche, che hanno milioni di iscritti, di utenti attivi, che hanno deciso di far diventare privato il subreddit, ovvero non far più comparire il subreddit su Reddit, fondamentalmente, quindi farlo sparire. Questa cosa è durata per 3-4 giorni, sì, ci sentiamo, e niente, e questo è successo, è stato insomma secondo me pochissime, Reddit, no, adesso c'è questo Spez, no? che è il CEO di Reddit, che è anche un utente di Reddit, ovviamente, e, che ha cercato un po' di difendere anche un po' questa scelta, dicendo no, ma comunque noi siamo in stiamo parlando anche con altri sviluppatori che fanno altre app, perché questa cosa in realtà è partita principalmente da un'app Apollo, che ti permette di fare il browse di navigare su Reddit dal telefonino, ed è, insomma, c'è un'interfaccia abbastanza carina, c'è tutta una serie di cose comode che l'interfaccia di Reddit, quello ufficiale, non ha, perché c'è pure l'app ufficiale di Reddit. Quindi c'è, secondo me c'è in gioco, c'è anche un po' questo, cioè che loro vogliano riposizionare tutta una serie di utenti su prodotti che fanno loro e che controllano loro, più che avere terze parti che controllano, diciamo, che fanno cose con quella mole di dati, visto che loro invece la cosa che fanno è vendere pubblicità su quella su quel dataset, diciamo, su quel... Ti ricordi qualche anno fa, quando è stata coniata per la prima volta il termine contenuti prodotti dagli utenti? User generated content. User generated content sono stati percepiti immediatamente come un'enorme risorsa, un'eccezionale opportunità, praticamente gente che lavora gratis e che, siccome per passione, per hobby, pubblicano contenuti, perché non monetizzarli? Eh sì, sì, assolutamente, infatti... E dunque diciamo che la linea Musk, Elon Musk, il famoso multibilionario che ha recentemente acquistato Twitter per una cifra astronomica, ma per lui assolutamente ridicola, sta facendo scuola, insomma, la sua linea. Sì, boh, sta facendo scuola, oppure semplicemente, appunto, un sacco di aziende si trovano nella merda e devono fare cassa con quello che gli è rimasto. E perché alla fine forse è anche un po' questa la dura e amara verità, per insomma un sacco di aziende del comparto tecnologico stanno soffrendo, e anche Reddit alla fine, insomma, non è che si sia evoluto negli ultimi anni, e non è, e in realtà mi viene anche da fare una riflessione su queste comunità. Così arrivano sempre a un punto che poi esplodono. Io mi ricordo Dig, non so se te lo ricordi. Dig? Stai diggando nel passato remoto. Io ero un gran frequentatore di Dig. Cazzo, cioè c'era... però a un certo punto non so che cavolo è successo, hanno fatto qualche cagata e si siamo spostati tutti su Reddit. E... ci siamo, perché dai, non c'eri anche te. Percepisci, cioè l'hai detto in modo che tipo c'è una comunità. Ovviamente, no, ma è chiaro, è palese, cioè non è... Twitter è mai stata una comunità? Io non sono mai stato tanto su Twitter, quindi stai chiedendo la persona sbagliata, c'ho proprio una repulsione, perché è proprio, a parte la... Twitter, cavolo, in realtà adesso faccio una piccola premessa, cioè nel gruppo di fondatori di autistici c'è stata una precursione di Twitter in certi modi, c'era... Non ho usato Twitter? No, nel senso, noi avevamo... fondamentalmente avevamo fatto una specie di Twitter in casa per poter avvertire e dire delle cose che succedevano in piazza, insomma, in certe situazioni, cose eccetera, e questo era appunto stato un precursore di Twitter. Poi ovviamente in realtà sì e no, non era niente di che, era una persona che era in piazza e che chiamava e mandava sms e altra gente che girava sms che era la base del funzionamento di Twitter. Che ha preso piede, diciamo, sulla, è stato amato nell'ambito giornalistico, in quanto Twitter è nato con la presenza di Twitter. Allora, se da una situazione probabilmente di piazza sta succedendo qualcosa, lo puoi comunicare mandando un SMS. Sicuramente non potrai in piazza scrivere un blog o mandare o editare una pagina HTML per comunicare. Stiamo parlando di prima che esistessero i social media. E dunque Twitter nasce dicendo: facciamo così, tu mandi un SMS, ti registri, questo è il nostro sito, dopodiché tu mandi un SMS al numero che ti diciamo noi, un numero, quattro cifre, e l'SMS che mandi, siccome il tuo numero telefonico è stato registrato, verrà postato su una pagina internet e il tuo intervento avrà una durata limitata di caratteri, che sono quelli dell'SMS, perciò 160 caratteri, e questi 160 caratteri noi li chiameremo, questo post, noi lo chiameremo un tweet, un cinguettio, e dunque tu cinguetti con un SMS, ma invece di mandarlo al tuo amico, lo mandi a quel numero là, in modo che virtualmente tutto il mondo possa vedere quel tweet. Esatto. E questo ha fatto una lunga strada fino a che abbiamo parlato delle rivolte. Dove hanno le rivolte, la rivoluzione di Twitter? Occupy. No, oh. Si chiama Medio Oriente, è stato. Ah, scusami, no, certo, in Egitto dici. Certo, sì, io fra l'altro mi ricordo ai tempi. Una cosa che si era venuta a creare, c'era un team di traduzione di proprio di quei tweet lì che passavano, in realtà poi passavano anche in alcune pagine e venivano tradotte in più lingue, e io facevo parte di un team di traduzione da inglese, italiano, francese, insomma, vabbè. Era, sì, durante la primavera araba. La primavera araba, piazzale Tahrir. A quell'epoca si parlò addirittura di social media. Sì, esatto, è stata molto molto sull'impronta social media. Cavolo, sì. E i social media hanno continuato tutta. Un attimo, facciamo una piccola premessa. Ricordiamoci che durante la primavera araba Vodafone tipo fece le ce lo ricordiamo, no? Durante la primavera araba chiuse, stato l'ubinetto. Eh sì, basta, staccarono tutto. Disse: noi stacchiamo, diventate un po' quel cavolo che volete, non vi diamo più connessione sul telefonino. Si sente solo lobo audio basso, ci dicono. Si sente solo lobo audio basso. Azzo. No. Scusa, attacca il tuo microfono. Attacca un po', parla. Adesso ci siamo? Adesso ci dovrebbero sentire, cazzo. Che peccato. E a questo punto, mettiamo un pezzo musicale. Conoscete Ada Oda? Non conoscete Ada Oda? Adesso conoscetela. Sta per conoscerla. Strada. eccoci tornati, sperando che i volumi siano su. Io penso di sì, perché vedo verde quando parli. Vedi verde quando parlo? Lo vedi qua il verde quando parlo. Forse devo parlare a voce più alta. Provo a parlare? Provo a parlare. Senti, entri nel compressore, quindi va bene. Se entro nel compressore sono sereno. Il compressore è felice. Radio Bitume. Parlavamo di social media, parlavamo di tante cose in realtà, parlavamo anche di proteste. Parlavamo delle proteste attraverso i social media. Esatto. E di quanto possano essere efficaci finché non arriva Vodafone e ti spegne. Esatto. Oppure arriva Musk e ti spegne. No, Musk non ti spegne, no, Musk ti dice... Spegne, anzi ti dà internet se vuoi sparare i missili. Più precisi, ma preferisce che tu gli paghi una tariffa, dai, quella cioè non c'è bisogno di menzionarla, non menzioniamo la tariffa. In modo da avere il bollino blu. Esatto, esattamente. E io in realtà prima pensavo, non so, questa cosa di Reddit mi ha fatto venire in mente i NetStrike, che non c'entrano in realtà con questa cosa, ma c'entrano come... Non lo so, era così, era un pensiero laterale. E io evocherò nuovamente la signora, la casalinga di Voghera, il bracciante lucano, i quali ci domanderanno che cos'è un net strike. Net strike vuol dire sciopero, giusto? È uno sciopero, è un'altra forma di protesta che diciamo, come definirla, diciamo, è una specie di attacco informatico non invasivo, che praticamente consiste nel connettersi. Un momento, faccio un attimo l'avvocato. Non invasivo lo dici tu. Esattamente. No, in realtà è tendenzialmente è, fra virgolette, invasivo. Però, c'è un però. Cioè, tecnicamente è un denial of service, ovvero una cosa che fa sì che, facciamo l'esempio pratico, te hai il sito www.qualcosa.it, sei contro questa cosa qui, vuoi tirargli giù il sito fondamentalmente, e questa è la cosa un po' che è stata il NetStrike negli anni 90, diciamo. Negli anni 90 si diceva andate, esatto, tutti su quel sito lì, nello stesso momento, collegatevi col vostro modem 56k o 28, andava bene. Collegatevi al sito, fate delle premete F5, esatto, caricate tutte le pagine, così fate un sacco di richieste al sito, esatto, e il sito non riuscirà a sopportare tutte le 10.000 richieste, esatto, e crolla. Esattamente. Poi cosa è successo? Niente, questo è stato, vabbè, ne sono stati fatti un po' dal 95 fino al 2008. Poi cosa è successo? Niente, praticamente è un po' anche questa la cosa che forse mi faceva fare dei paralleli, che purtroppo comunque questo tipo di protesta, essendo un tipo di protesta virtuale, non è comunque un tipo di protesta che porta... Cioè, mi viene da fare questa riflessione, cioè anche nel caso di Reddit comunque si sta parlando di un livello di astrazione, volendo, no? Di... Aspetta, se posso... Che non... No, nel senso, è vero che le interazioni... Cioè, ora vabbè, forse sono due cose non troppo paragonabili, insomma, ecco, però... Ma la differenza mi viene in mente tra... No, è solo... le NetStrike degli anni 90 erano su base volontaria degli utenti. Sì. Mentre i moderatori di Reddit, certo, no, sono degli amministratori. No, è chiaro, molti moderatori in realtà hanno fatto dei poll, per capire, anch'io nel mio subreddit ho fatto un poll chiedendo: volete fare la protesta? Sì, ok, facciamo allora. Cioè, nel senso... Uh-huh. Un tentativo di democratizzazione c'è stato, ecco, non è stato proprio un... Ma se mi permetti, certo, ti chiederei, ma i NetStrike degli anni 90, sì, negli anni 90 funzionavano? Cioè, se il sito pigliava 10.000 richieste nello stesso momento, giù, andava giù. Questa cosa aveva un po' di risonanza mediatica, devo dire, poi alla fine un po' anche lì, finita lì, nel senso, perché comunque... Cioè, però, però il sito andava giù. Sì, sì, il sito andava giù, non si poteva accedere a certi siti, insomma. Una cosa che è cambiata è che adesso far andare giù un sito non basta dire andate sul sito quell'ora, andate così da quell'ora, il sito sì, fa, che bello, c'ho più. Sì, su questo non ci avevo pensato, effettivamente. E hanno... Sì, era altra tecnologia, insomma, comunque stava la connessione ai tempi. Io, vabbè, si sono inventati. Mi ricordo, lavoravo in provider che avevano tipo la linea 128K e tipo 4 modem a 28.8 per fare da provider. Cosa? E dici, vabbè, come funziona? Sono nati dei, mi verrebbe da dire che sono nati dei mediatori, delle figure di mezzo, tipo quelli che fanno il cloud di mezzo tra le richieste che arrivano da, diciamo, dagli utenti a quelle che approdano al server. Sì, vabbè. Ma parliamo d'altro. E dunque, Camilla De Pandis si è lasciata. Camilla De Pandis si è lasciata dopo quanto? Non sappiamo esattamente dopo quanto, però diamo la notizia sapendo che dopo anche la rottura della relazione tra Patrizio Umarellis e Rebecca Parziale. Rebecca Parziale, poi, fra l'altro, ci è rimasta malissimo. No, ma hanno detto che rimangono in ottimi rapporti. Sì, però e anche Camilla De Pandis ci tiene a far sapere. Non andranno in vacanza a Cortina assieme, io ho sentito. Forse no. Perché avevano altri progetti e poi insomma. Ma questo è presto per dirlo. Però Camilla, esatto. Di certo sappiamo che Camilla ci ha raccontato, ha fatto una storia su Instagram per dirci che vuole che la cosa rimanga privata, esatto, e che ha bisogno di stare un po' da sola e di non... E che sono in ottimi rapporti. Sì, esatto. E per questo ha fatto una storia su Instagram e noi lo siamo venuti a sapere tramite Instagram. Tra le altre notizie, parlando d'altro, mi viene in mente che ci sono 5 persone in questo momento che stanno battendo sulla superficie di un sommergibile a 3.000 metri e passa di profondità. Sì, a quanto pare qualche miliardario ha avuto la infausta idea di infilarsi in una bottiglia sigillata dall'esterno e di farsi precipitare 3.000 metri in fondo al mare. Dici miliardario perché il viaggio costava 250.000 euro. Esatto, 250.000 euro. E c'era, non sono pochi. E da quanto ho capito c'era uno padre e figlio, quindi questi hanno speso 500.000 euro in famiglia. Vabbè, come Luna Park, insomma. Ma sì, dai, cosa facciamo? Andiamo a vedere il Titanic di persona. E si sono messi in un sommergibile. Sono scesi di più di 3.000 metri. Sì, una cosa assurda. Cioè, che credo siano 10 ore in tutto andare a salire, una roba del genere, almeno 10 ore. A un certo punto sono spariti, non si sa niente. E appunto, fra l'altro, quello che ti dicevo prima, avevo letto di quest'altro super miliardario che aveva anche lui doveva andare tipo verso febbraio a vedere il Titanic. Appena è salito su questo sommergibile è sceso e ha detto no, io non mi sento sicuro perché insomma a quanto pare questo sommergibile è costruito insomma non diciamo come sommergibile ma utilizzando pezzi di altre cose da quello che ho capito e una cosa, un particolare che girava che leggevo oggi il timone di controllo di questo sommergibile è un joypad della Logitech. Scusate, wireless? Sì. Sono scesi a 3.000 metri con un controllo wireless. Nel senso, no? Già. No, ci avrà anche il cavo probabilmente, gliel' auguro di avere il cavo. Però ecco, mi viene da pensare, c'erano queste interviste in cui si vede questo controller che gli hanno pure stampato sopra con la stampante 3D su i joypad analogici, due stick lunghi, no? Che sembrano vabbè ma in questo momento ricordiamo che la notizia comunque è drammatica. È drammatica in questo momento sono sotto, stanno battendo, dicono che hanno sentito dei colpi e perciò se entro 12 ore li tirano fuori forse scopriranno se sono vivi, se no per ora hanno messo dei microfoni per capire dove sono. Il discorso è, ok, capisci dove sono e poi come li prendi e poi come li tiri su. E quindi secondo me questa storia non finirà. Perciò sono 12 ore, fra l'altro, 12 ore intense, non si sa se sono vivi, perché probabilmente metti che si è aperta tutta la cosa, poracci, hanno fatto una brutta fine. Certo, no, ora se sentono rumori magari no, ecco, gli auguro, però ecco, diciamo. E dunque le notizie ferali sono due: Camilla De Pandis si è lasciata e ci sono 5 miliardari che in questo momento stanno battendo sul muro di un sommergibile augurandosi di essere ripescati entro le prossime 12 ore. Segmento, l'ultima notizia. L'ultima notizia è l'Apple ha deciso di fare causa al governo svizzero, anzi ai produttori di mele svizzeri, perché il loro logo è una mela. Se tu vai a vedere, infatti c'è questa mela rossa con un più no? Bianco, che è la Svizzera. E si chiamano Apple Swiss, no? Una cosa del genere. E questa Swiss Apple, non so, e questa cosa non può, no. Ma questa è antica, la Apple rivendica i diritti sulla mela. Cioè, è importante. Hanno cominciato così. Proprio, cioè, tu non puoi usare. La mela esisteva Apple, prima, ma loro. Questa azienda, i produttori svizzeri ci sono da 112 anni. E la mela di più. E la mela di più, sicuramente. Però voglio dire. Che cazzo vogliono? Cioè, è assurda sta cosa. Fra l'altro, cioè, è veramente, se te vai a vedere. Ma tu te la ricordi tutta la causa Apple Inc. contro Apple Beatles? Perché la casa di produzione dei Beatles si chiamava Apple. E nel 70 ha fatto tipo Let It Be, Abbey Road, almeno due dischi, credo. Questo è il logo. E c'è stato un grosso fatto con l'Apple, che credo che sia risolto con un clamoroso accordo. Comunque. Di non. Non ci parliamo addosso. Scusami, tu che sei bravo. Allora, però radiofonicamente parlando, ci stanno mostrando un telefonino. Allora, c'è scritto le Free Swiss. Le Free Swiss. La frutta svizzera. C'è, la certo. Frutta neanche. E c'è un logo con una mela, con una mela. Croce bianca. Secondo te è una mela? La mela. Beh, certo. Questa è anche una pesca. No, la mela. Vabbè, ma nel senso. Sì, ok, una mela. Però, la mela è uno dei frutti più simbolici. Quanto può entrarci questo? Non è che la mela è solo questo logo qui con quello della Apple. Niente, non c'entrano assolutamente niente. No, la Apple è una, cioè, è una mela nera. Certo. O arcobaleno, perché la prima mela è arcobaleno, esatto. La mela morsicata. Anche la mela morsicata, che è la Apple, anche quella non l'hanno inventata loro, la mela morsicata, che io sappia, più vecchia di così. No. Boh, non lo so. Non è biblica addirittura, mordi la mela. Morsicata rimanda al peccato originale. Ai tempi non avevano ancora capito il potenziale del copyright. Come no? Sono chiamati Apple una mela morsicata, avevano capito perfettamente. Vabbè. E niente, la domanda però è adesso che altro vogliono? Esatto, non lo so. Vogliono rompere le scatole ai produttori di mele svizzeri? Perché? Non abbiamo capito. Hanno paura di perdere il marchio. Esatto. Vabbè, questa era l'ultima notizia. Non so se abbiamo altre. Se vogliamo parlare d'altro. Beh, ce la giochiamo dopo una canzone estiva. Va bene, dai. My sunshine, my beautiful sunshine, you make me happy when skies are gray. You'll never know, dear, how much I love you. Please don't take my sunshine away. Just the other night, it happened again. As I was trying to get some sleeping, I thought I heard you call my name. I thought I saw you looking down in my eye. I woke up screaming, a hallucination, or keep me from dreaming. I had to hang my head off the foot of the bed and lay down and cry. Why you're my sunshine, my beautiful sunshine. You keep me busy. suggeriscono di riscrivere la Genesi cambiando mela in pera. Thank you. Radio Bitume. In realtà c'è stato un ampio dibattito su se offline, se off the parlare records in questo momento o mettere un altro pezzo. E dunque abbiamo deciso di in questo momento.